momento io son fermo ancora qua. Cammina, cammina, il mio piede è arrivato, io sono fermo ancora qua. Io sono fermo.